mi fotte niente proprio, niente proprio. Non mi fotte niente proprio, niente proprio. Apri bocca, sento niente proprio, niente proprio. Sulla tomba metto niente proprio, niente proprio. Sono nato in un posto di merda, senza niente, spinto più non posso questa merda. Ciecamente 10.000, 4 canne d'erba, mediamente la riserva nei tempi di guerra. C'è da sempre, non mi è mai fregato niente proprio. Dei contanti volevo soltanto un bel Mac nuovo, degli occhiali ora che di scarpe ce ne ho 100. Non le metto, morirò da solo in un albergo. Come tengo tutta la mia gioventù bruciata, tutto fumo, niente arrosto, tutto fumo, tutto fumo. Non crediamo ancora in niente, né in nessuno. Chi non è scappato ancora prende, vende il fumo. Non mi fotte niente proprio, niente proprio. Non mi fotte niente proprio, niente proprio. Niente proprio, niente proprio, niente proprio. Non mi fotte niente proprio, niente proprio. Padre nostro che sei nei cieli, dai risolvi tutti i problemi. Io so che puoi che ami i tuoi fedeli, sì ma i bianchi un po' più dei neri. Viva il tuo nome, venga il tuo regno, che da fuori è davvero bello. Poi guardi meglio ed è solo merda, così in cielo, così in terra. Dacci il pane anche il quotidiano, le stronzate ce le beviamo. Dacci i soldi non voglio tanto, giusto quelli che devo un altro. No, non ci indurre mai in tentazione, crollere alla prima occasione. Mi sale il cane, liberaci dal male. Non mi fotte niente proprio, niente proprio. Non mi fotte niente proprio, niente proprio.